Thank you. Thank you. dia passando soavi note e me traea vaghezza di saper da che man veniam d'estate. Perdono, Agnese, uscite voi, restate, sedete, o cielo, sedete. perla il mio brillante sguardo. Va, la raggiungi. Thank you. Oh! Oh! castiga l'orda tutto in catana. Costa pica!

Thank you. promessa, dopo d'udir tua voce. Agnese,

Thank you.